sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Borse ancora a picco, sta arrivando una valanga, dice Epifani. Le banche reggono, ora serve fiducia, la ricetta di Berlusconi. E la crisi aumenta il rischio di usura, 70 miliardi per la prevenzione, passa dalle tasche la lotta alla criminalità organizzata. Più latte prodotto dall'Italia, Bruxelles riscrive le regole per le quote. Nel nostro paese crescono i bambini stranieri, il Premier rilancia le classi ponte. Nella giornata dell'infanzia, sotto i riflettori quella rubata, pedopornografia, povertà, poca istruzione. 633 incidenti stradali ogni giorno in Italia sono in diminuzione, ma è ancora emergenza e sempre più coinvolti sono i giovani. Nel mondo le eccellenze italiane, un medico negli Stati Uniti restituisce il cuore ad una ragazza che ha vissuto senza per 118 giorni. In Iraq torna a vivere il museo di Baghdad grazie ai carabinieri. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizio. Buongiorno da Anna Migliorati. Dunque, le borse europee si sono svegliate questa mattina con l'onda lunga negativa che arrivava da Wall Street e da Tokyo, un'onda sulla quale pesa ormai naturalmente la crisi economica, prima di tutto quella del mercato dell'auto. E allora cominciamo col capire qual è la situazione sui mercati e di nuovo parliamo di giornata nera, è rimasta con noi Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori, infatti come dicevate oggi una giornata difficile per i listini con cali nell'ordine del 2%, Milano meno 2,10% per il MIBTEL, meno 2,03% per il MIB30, anche il resto d'Europa non va meglio, meno 2% per Francoforte, Parigi in calo del 2,27%, così anche Londra, però i listini questa mattina avevano accentuato le perdite, hanno arrivati a perdere anche il 3%, quindi in attesa dell'apertura di Wall Street che non manda però segnali positivi, i futures sugli indici americani sono in questo momento negativi. Torniamo a Piazza Affari per dare un veloce sguardo d'insieme. Prysmian è la peggiore del listino, meno 8,4% in questo istante, male anche A2A, meno 5,86%. Saipem cede il 5,45%, anche Tenaris male, meno 3,43% sulla scia di tutto il settore oil in Europa. Fiat meno 3,87% quando ci sono delle preoccupazioni a livello internazionale per quanto riguarda il settore automobilistico, male anche l'automatica, meno 3,73. Anche per i bancari è una giornata difficile in generale, anche se i cali sono meno pesanti che nei giorni scorsi. La peggiore in questo istante è Unicredit che cede l'1,87%. Per quanto riguarda i titoli migliori, Italcementi meno 2,6. Ed è tutto. Grazie Valentina Furlanetto e interrompiamo il flusso delle notizie negative con una notizia che invece è positiva perché riguarda la discesa dei tassi interbancari in euro. L'Euribor con scadenza a 3 mesi è sceso di 4 punti base al 4,08%, un livello che non si vedeva dal 17 maggio 2007. Buone notizie per chi paga il mutuo. Cattive notizie, di nuovo perlomeno un privato negativo dall'OCSE. L'Italia è tra i 3 paesi assieme a Germania e Gran Bretagna che hanno registrato i cali di PIL più consistenti dal trimestre precedente, meno 0,5%. In più, il nostro paese ha segnato la performance più negativa della crescita su base annua, con un meno 0,9%. E in tutto questo, il governo. Sì, questa mattina il presidente del Consiglio Berlusconi ha provato a rassicurare, facendo anche qualche annuncio. Sentiamo. Oggi siamo tranquilli sul sistema bancario europeo complessivo, abbiamo avuto la soddisfazione di vedere come il nostro sistema bancario fosse complessivamente solido, nessuna banca ha dovuto ricorrere a aumenti di capitale da parte del governo, da parte dello Stato e tutte le banche hanno avuto la liquidità che richiedono necessaria per il loro lavoro. Oggi è importante che queste banche continuino a fare il loro mestiere, continuino a fare le banche, cioè a sostenere le imprese. Adesso che cosa c'è da curare? C'è da curare che non cada la fiducia dei consumatori e il governo perciò sta tentando continuamente di immettere serenità, di immettere buon senso. serenità e fiducia, buonsenso che il governo vuole iniettare nel mercato, ma anche denaro nelle tasche soprattutto delle famiglie disagiate. Quello che dovrebbe arrivare come intervento mercoledì prossimo è anche questo, un annuncio che ha fatto questa mattina il presidente del Consiglio Berlusconi. Ma poco prima parole dure erano arrivate dal leader della CGIL Guglielmo Epifani, ospite a Panorama del Giorno. Ha duramente attaccato: la crisi sta per travolgere l'economia italiana. Sentiamolo. Dalla ricognizione che stiamo facendo proprio in queste ore esce fuori un quadro della crisi molto più pesante. Questo mi fa dire che sta arrivando una valanga e quindi c'è bisogno di un intervento di proporzioni molto forti. Un intervento molto forte, invoca dunque Epifani, che poi ha concluso così. È chiaro che se il governo dovesse accogliere il senso delle nostre proposte, noi siamo pronti a riflettere sullo sciopero. Se il governo dovesse andare in una direzione sbagliata, si farà il nostro sciopero. E intanto ad accogliere la proposta di una discussione generale in Parlamento, una proposta che è arrivata ieri dal segretario del PD Walter Veltroni, è il leader della CISL Bonanni. Sentiamolo. Credo che sia proprio quello che serve oggi, questo atto di responsabilità. Se l'opposizione fa questo atto di responsabilità, è bene che anche il governo abbia coraggio e dimostri responsabilità. Fin qui in Parlamento. Sul piede di guerra però sono anche i comuni italiani, che annunciano anche loro un particolare sciopero. Francesca Malaguti, quale? Sì, presentano lo sciopero dei bilanci di previsione. L'invito esatto è questo: non presentate i bilanci di previsione 2009 entro la scadenza del 31 dicembre. Viene fatto dall'ANCI ai comuni italiani ed è stato formulato dopo il direttivo nazionale di venerdì. Dopo il taglio dell'ICI sulla prima casa, che toglie ai comuni 700 milioni di euro per l'anno in corso, e la legge 133 che riduce il fondo ordinario di 200 milioni, non ci sono le condizioni materiali per presentare i bilanci. Lo afferma il presidente dell'ANCI Leonardo Domenici, che specifica: non si tratta di uno sciopero ma di una protesta costruttiva. L'associazione dei comuni chiede essenzialmente due cose: la prima, di garantire il pieno rimborso del mancato gettito sull'ICI della prima casa, ma dice il fondo stanziato per questo dal governo non basta, mancano ancora diverse centinaia di milioni. Seconda cosa, l'ANCI chiede che gli investimenti siano fuori dal patto di stabilità, quindi non conteggiati nelle voci di spesa. Il patto di stabilità è giudicato da Domenici troppo rigido e potrebbe impedire gli investimenti necessari a far fronte alla crisi in corso. Oggi pomeriggio è convocata a Palazzo Chigi una conferenza unificata di Stato, Regioni, Province e Comuni, poi a seguire una seduta straordinaria con gli stessi interlocutori, a cui dovrebbero partecipare anche il Premier Berlusconi e il Ministro dell'Economia. I due incontri verteranno proprio sui problemi degli enti locali di fronte alla crisi. Da Roma è tutto. Grazie Francesca Malaguti. E chi invece sembra non conoscere crisi, l'abbiamo già detto altre volte, è purtroppo la mafia. I dati che emergono in questi giorni però sono di contrasto forte alla criminalità proprio sul fronte economico. In arrivo tra l'altro ci sono anche fondi destinati a prevenire l'usura. Tutti i dati che sono stati presentati questa mattina dal ministro degli Interni, che chiediamo di raccontarci a Vanessa Colangiuli. Tagliare le fonti di reddito alla criminalità organizzata, che dati alla mano risulta essere l'azienda più florida d'Italia. Aggressione dunque dei patrimoni dei mafiosi e messa a disposizione dei beni confiscati, ottimizzandone l'uso e garantendo anche una corretta amministrazione. È uno dei punti del disegno di legge del governo attraverso il Ministero dell'Interno, punti che sono stati presentati oggi. Dati sulla criminalità organizzata presentati dal Ministro dell'Interno Maroni insieme al sottosegretario Mantovano, al procuratore antimafia Grasso. Da maggio a oggi sono state portate a termine 49 operazioni di polizia antimafia e anticamorra, arrestati 73 pericolosi latitanti appartenenti sia alla mafia che all'andrangheta che alla criminalità pugliese, e sequestrati beni per 3 milioni di euro tra immobili e terreni. Tra i punti contenuti nel disegno di legge sulla sicurezza già approvato dal Senato e in attesa del sì della Camera, l'aumento di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo di solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso e di un fondo di 70 milioni di euro per la prevenzione dell'usura, che al momento risulta essere tra le attività più lucrose dell'azienda mafia, con 160.000 commercianti colpiti. Ecco, l'azione del governo e delle forze dell'ordine, ha detto Maroni, non avrà flessione ed è destinata a rafforzarsi. Tra gli obiettivi del pacchetto sicurezza è il contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici e il contrasto al racket, responsabilizzando gli imprenditori. Sul sito del Ministero dell'Interno è possibile analizzare nel dettaglio le operazioni di polizia compiute da maggio scorso fino a oggi. Da Roma per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie. grazie a Vanessa Colangiuli. Crisi insomma un po' per tutti, anche il mondo dello sport non fa eccezione e prova però a correre ai ripari. Il calcio, un progetto, ce l'ha già per gli stadi italiani. Un progetto di legge bipartisan per rilanciare la realizzazione di nuovi impianti sportivi. Divise su molto, se non su tutto, maggioranza e opposizione si ricompattano sull'idea di avviare la costruzione di nuovi e più moderni stadi in Italia. 8 gli articoli contenuti nel disegno di legge presentato dal senatore Alessio Butti per il Popolo delle Libertà e dall'onorevole Giovanni Lolli per il Partito Democratico. Scopo della legge è semplificare l'iter burocratico per avviare i lavori, coinvolgere il credito sportivo per abbattere gli interessi bancari, permettere ai comuni di affidare i nuovi impianti in gestione ai club. Il giro d'affari per ammodernare il parco stadi italiani si aggira intorno ai 6 miliardi di euro e potrebbe creare almeno 85.000 nuovi posti di lavoro, secondo uno studio di Stage Up Sport and Leisure Business. L'obiettivo è realizzare nuovi stadi multifunzionali, impianti dotati di cinema, ristoranti, negozi, aperti 7 giorni su 7 e funzionali per il tifoso e non solo. Il modello, molti stadi inglesi ad esempio, anche se quello più bello è il tempio del rugby mondiale di Twickenham a Londra, come spiega l'architetto Mario Arnaboldi, autore dell'Atlante degli impianti sportivi. Devo dire che è uno stadio di cui lei entra e le smozza il fiato. Il tipo di comunicazione, gli altoparlanti, i percorsi, la seduta, c'è un modo di ricevere. Uno può stare oltre la partita, sta nello stadio per scambiarsi delle idee, ci può passare tutta la giornata, addirittura dormirci dentro e ricominciare il giorno dopo. Ma anche in Italia qualche buona idea da cui ripartire, per fortuna, c'è. Fra gli stadi che a me piacciono in modo particolare è quello di Renzo Piano a Bari, un bel impianto a spicchi, selezionato bene. Dario Ricci, GR 24, Il Sole 24 Ore. 20 novembre è in tutto il mondo oggi la giornata per l'infanzia. La denuncia di Telefono Azzurro proprio in questa giornata riguarda il 5° posto dell'Italia nella triste classifica della pedopornografia. Nel mondo ci sono 37 milioni di bambini che non hanno accesso all'istruzione. Poi, per l'infanzia si fa troppo poco, ha detto oggi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione di questa ricorrenza. E a Montecitorio c'è stato un lungo dibattito in cui il Presidente del Consiglio Berlusconi è tornato su diversi temi. Al di là della crisi economica di cui abbiamo parlato, la schedatura, ad esempio il controllo dei bambini nei campi Rom, Berlusconi ha detto è la difesa al diritto di identità. E poi un altro tema dibattuto, la riforma della scuola che Berlusconi ha difeso così. Questa riforma, piccola riforma di assoluto buonsenso nella scuola elementare, il cosiddetto decreto Gelmini, non contiene nessuna riduzione di spesa, non contiene nessuna previsione di licenziamento, c'è soltanto il fatto che abbiamo registrato come avere due maestri sia per molti versi qualcosa che incide meno sulla possibilità di formazione reale. Altro tema, le classi per bambini stranieri. Sentiamo ancora il Premier. Corsi e classi che non sono separate, ma che sono semplicemente tese a dedicare molto tempo all'insegnamento della nostra lingua, all'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri. Quindi io non credo che si tratti di nessuna discriminazione, si tratta di una cosa assolutamente logica, direi doverosa, a loro vantaggio, a vantaggio anche delle maestre che se hanno in classe 3, 4, 5 bambini che non conoscono bene la lingua italiana, evidentemente hanno un riscontro al loro insegnamento molto difficile, molto problematico, che va a danno non solo di questi bambini ma anche a danno di tutti gli altri alunni. 13:18 minuti, le notizie di oggi. Il segretario della CGIL lancia l'allarme sulla situazione economica. Il quadro è molto pesante, sta arrivando una valanga. Intanto il Presidente del Consiglio annuncia per mercoledì prossimo i primi interventi del piano anticrisi con aiuti per le famiglie disagiate. Per le borse è ancora una giornata di passione, nuovo tonfo di Tokyo. Dopo il calo ieri a Wall Street scivolano anche i listini europei, Milano cede l'1,7%. Accordo a Bruxelles sulla politica agricola, arriva l'aumento delle quote latte italiane, un'avvertenza che si trascinava da anni, un aumento pari al 6%. Nel nostro paese crescono ancora i bambini stranieri, il Premier rilancia le classi ponte, nella giornata dell'infanzia sotto i riflettori quella rubata, ne parliamo tra poco. È dedicata all'integrazione dei minori stranieri, la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui abbiamo già parlato, che si celebra oggi alla Camera su iniziativa della Commissione parlamentare per l'infanzia. Proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge del ministro Carfagna per istituire un garante nazionale per l'infanzia, figura istituzionale attesa da anni. Ormai il fenomeno dell'integrazione riguarda praticamente tutti. Pensate che, secondo l'Istat, il 55% di bambini e ragazzi italiani ha in classe dei compagni stranieri. E allora ne parliamo con il nostro ospite Roberto Salvan, direttore generale UNICEF. Buongiorno. Buongiorno. I bambini italiani sono davvero così cambiati rispetto a qualche anno fa? Di loro si è parlato molto, diciamolo, nelle giornate di acceso dibattito sulla riforma della scuola. E allora oggi può essere ancora una volta l'occasione per chiederselo in qualche modo. Come sono i bambini italiani? I bambini sono certamente cambiati perché è cambiata la società che gira intorno a loro, sono cambiati i genitori, è cambiata la scuola, la televisione, quindi ovviamente sono cambiati anche i bambini. C'è una situazione di disagio che è dovuta alla crisi economica e finanziaria che già si tocca con mano a livello di famiglie, e anche gli ultimi dati hanno riconosciuto che la quantità, il numero di famiglie povere è aumentato soprattutto al sud, e quindi l'impatto sui bambini c'è tutto. E sono cambiati perché ci sono molti più immigrati, per esempio, e sono stati iscritti oltre 570.000 figli di immigrati, bambini nati prevalentemente in Italia, alle scuole elementari, e qui cambia anche la scuola e quindi ovviamente cambiano anche i bambini italiani, perché si devono relazionare con bambini che vengono da altre culture, religioni, altri colori di pelle e via discorrendo. E tra l'altro il tema di quest'anno della giornata dell'infanzia, almeno per quanto riguarda l'Italia, è l'integrazione proprio dei bambini stranieri. Anche questo è un tema di cui si è parlato un po' nelle settimane scorse. Uno dei propositi di riforma era proprio quello di attuare delle classi ponte. Ora, non so, anche nell'esperienza degli altri paesi, qual è il vostro punto di vista? Cosa si sta facendo in Italia per favorire questa integrazione? Ma le classi ponte si possono realizzare per brevi periodi o si possono mettere in parallelo alle classi normali, non può essere la soluzione, perché altrimenti è facile cadere nella segregazione, mentre il facilitare l'inclusione, il facilitare imparare la lingua via discorrendo sono elementi fondamentali. Negli altri paesi europei ci sono queste esperienze, perché anche negli altri paesi arrivano bambini e adolescenti dal sud del mondo e c'è questa necessità di integrarli nel più breve tempo possibile, e vengono realizzate appunto queste classi ponte per facilitare la conoscenza reciproca tra i bambini, e credo che questa poi in alcune situazioni sia la situazione migliore. Non è pensabile mettere tutti i rumeni tutti insieme o chi viene dal Marocco tutti insieme perché parlano la stessa lingua. Questo ovviamente è una soluzione che noi riteniamo assolutamente sbagliata, perché non facilita l'integrazione. Arricchimento o emergenza i tanti bambini stranieri in Italia? Certamente la diversità è un arricchimento, non può essere vissuto come un problema. Purtroppo notiamo che a livello culturale in Italia, proprio di pochi, credo di ieri o l'altro ieri, credo un'indagine fatta a livello europeo dove sembra che in Italia si viva lo straniero, l'immigrazione, l'immigrato come un problema, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Noi invece pensiamo che bisogna portare avanti programmi sempre più diffusi, partendo dalla scuola, per facilitare il dialogo e la conoscenza. I nostri figli si arricchirebbero molto di più conoscendo meglio da quali paesi e quali lingue parlano gli altri bambini. C'è un problema in tutto questo, e torniamo all'inizio del discorso: servono fondi. Certo. certamente servono fondi qui in Italia per questo tipo di integrazione, i fondi devono essere disponibili a livello locale perché molti programmi devono essere realizzati dai comuni e sappiamo qual è invece la polemica o comunque i problemi che sono sorti dal punto di vista della finanziaria, i fondi sono stati tagliati ai comuni, ci sono anche delle esigenze abitative, molti immigrati vivono in situazioni molto difficili. Senta, a volte anche complice il mondo dell'informazione, si parla con toni allarmistici di emergenze che riguardano il mondo dell'infanzia, le condizioni di vita, le violenze che possono subire anche i bambini. C'è in Italia una emergenza legata all'infanzia e se c'è, qual è? No, la parola emergenza la dovremmo cancellare quando si parla di bambini e adolescenti, perché già immediatamente dicendo emergenza uno si mette sul chi va là, invece bisogna lavorare con, per esempio, avere un piano nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che manca da 4 anni, cioè il governo, il Parlamento non è riuscito, vuoi anche perché il governo precedente è caduto, vuoi tanti motivi, non abbiamo un coordinamento degli interventi che riguarda la fascia di età 0-18 anni tra i diversi ministeri, tra le regioni, con le amministrazioni comunali. Un ministro per i bambini? Ma sì, sarebbe sotto certi aspetti la cosa migliore perché molte competenze vanno in tanti rivoli. Un bambino ministro. La salute, eccetera. Non so se quella è la soluzione migliore, lo lascio fare alla politica questo. Noi chiediamo maggior coordinamento negli interventi. Benissimo. Grazie. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Arrivederci. E il Parlamento, ricordiamolo, sarà di nuovo chiamato a rispondere a questa esigenza perché proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge del ministro Carfagna per istituire il Garante Nazionale per l'Infanzia e toccherà la decisione al Parlamento. Abbiamo parlato di bambini e di adolescenti, ma non solo tra di loro, dilaga il fenomeno Facebook. Che cos'è? Una moda? Serve davvero? Sentiamo. Facebook, ma dove vai se non ce l'hai? Se non si è inseriti nella sua rete sociale informatica, si è proprio fuori dal tempo. Cos'è questa follia? Lo abbiamo chiesto al consulente specializzato in comunicazione e nuovi media, Nicola Mattina. Quando viene introdotta una nuova tecnologia, una parte della popolazione che è molto inclina a sperimentare le cose nuove comincia a giocare con questa tecnologia. Alcune delle tecnologie che vengono sperimentate dagli early adopter in qualche modo vengono sdoganate. E qui c'è una fase di crescita velocissima. Nel caso di Facebook sta accadendo in questo periodo, l'anno scorso è stato il caso di Second Life, poi passano nella normalità della vita delle persone, quindi non si usano più perché è bello e fa figo utilizzare quel servizio, ma semplicemente perché serve, così come tante altre cose che noi utilizziamo. Chi guarda avanti è già coinvolto nel sistema del live stream, un flusso di vita, in pratica un unico sito che in tempo reale comunica tutte le attività degli amici, gli aggiornamenti di Facebook, ma anche quelli del contenitore di immagini Flickr, di video YouTube o di sistemi come Twitter, un servizio di microblogging. Non più lunghi post o articoli da blog, ma brevissimi messaggi di testo, non più di 140 caratteri. Quante volte capita a una persona di fare una telefonata per dire che stai facendo? Con il live streaming tutte queste notizie vengono inserite dalle persone in un posto, quindi io man mano che faccio una cosa dico sto lavorando a questo progetto, che oggi mi sento un po' giù piuttosto che oggi sono molto contento. Io con questo giocherello riesco a tenere relazioni con un numero di persone che altrimenti sarebbe impossibile. Ognuno chiuso nel suo mondo informatico? Neanche per sogno. Si moltiplicano i raduni di blogger e soprattutto i bar camp, conferenze aperte i cui contenuti sono proposti dai partecipanti stessi che si offrono come relatori. Noi abbiamo una vita sociale che è fatta di tanti momenti, abbiamo modalità più fredde, quindi il telefono piuttosto che internet, ma poi abbiamo bisogno dello sguardo, dell'espressione verbale. I bar camp permettono di fare questo per condividere conoscenza, know-how, esperienze, per costruire cose nuove. Il prossimo Barcamp italiano domani e dopodomani a Roma presso la Facoltà di Economia e Commercio della Terza Università. Il tema, le idee per il futuro. 60 oratori parleranno per 30 minuti l'uno. Il programma all'indirizzo romecamp.it. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:34 minuti, le notizie di oggi extra large. Borse ancora in calo, l'avete sentito, sta arrivando una valanga, dice invece il segretario della CGIL Epifani. Le banche reggono, ora serve fiducia, la ricetta di Berlusconi. La crisi aumenta il rischio di usura, 70 miliardi per la prevenzione. Maroni, ottimi risultati dal contrasto economico alla criminalità. Accordo a Bruxelles sulla politica agricola, arriva l'aumento delle quote latte italiane, un'avvertenza che si trascinava da anni, un aumento pari al 6%. Nel nostro paese crescono i bambini stranieri, il premier rilancia le classi ponte, oggi giornata dell'infanzia. Nel mondo le eccellenze italiane, un medico negli Stati Uniti restituisce il cuore ad una ragazza che ha vissuto senza per 118 giorni. In Iraq torna a vivere il museo di Baghdad, grazie ai carabinieri. 633 incidenti stradali ogni giorno in Italia e sempre più coinvolti sono i giovani. Siamo parvenuti a un accordo, alla quasi unanimità del Consiglio. La voce che sentite è quella di Michel Barnier, presidente di turno del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea, che questa mattina ha annunciato il raggiungimento dell'accordo sulla politica agricola comune. Un'intesa che prevede tra l'altro un aumento delle quote latte per l'Italia, una soluzione dopo l'annosa questione della sovrapproduzione di latte da parte degli allevatori italiani, costata anche multe. E allora sentiamo l'intervista di Cristina Carpinelli al ministro dell'Agricoltura Luca Zaia. Un doppio risultato: da un lato è stata ripristinata quella legalità che mancava da 24 anni e dall'altro uscire da un negoziato con una soluzione ad hoc per la sola Italia come Stato membro sui 27 Stati che compongono il Consiglio dei Ministri dimostra anche che abbiamo negoziato bene e ci siamo fatti rispettare. Ecco, allora adesso cerchiamo di fare il punto anche per i nostri ascoltatori. Di fatto la quota di produzione italiana di latte adesso potrà aumentare di 600.000 tonnellate, questo a partire dall'aprile del 2009. Allora, innanzitutto lei ha detto che l'aumento di queste quote latte verrà dato prima a chi ha splafonato. Beh, sicuramente questa è un'opportunità per chiudere, qualora ci fosse la disponibilità da parte di splafonatori, tutta la vicenda delle quote latte, perché con latte fresco e quindi con quota fresca si può fare un grande ragionamento e magari dire per la prima volta nella storia che dal primo di aprile 2009 non si pagherà più una multa a livello italiano. Mi viene da chiederle, Ministro, qual è il prezzo che paga l'Italia per arrivare a questo accordo? Assolutamente nulla, perché nell'accordo generale della PAC noi siamo quelli che hanno portato a casa di più, come si direbbe, e si eviti di dire che il negoziato è stato appiattito sulle quote latte, perché è una bugia. Ecco, un'altra questione è invece la questione tabacco, nel senso che tutte le proposte avanzate dall'Italia sono state accolte, tranne quella per gli aiuti del settore del tabacco. A questo punto che succede? C'è da dire che la partita è chiusa su questo documento di Alcec, però abbiamo ancora un anno davanti per fare molti ragionamenti. La Commissione dovrà presentare un piano per l'attuazione appunto del regime entro la fine del 2009 e questa sarà un'ulteriore occasione eventualmente per discutere. Tra le altre cose l'Italia ha ottenuto anche di poter riutilizzare i fondi non utilizzati, cioè si parla di 140 milioni di euro. Questa è una grande notizia, nel senso che questa è altra parte del negoziato dove noi abbiamo preteso con forza di poter utilizzare quelle risorse che puntualmente andavano a finire nelle casse europee, destinate agli italiani, non utilizzate e finivano nelle casse europee e quindi venivano utilizzate dai 27. Da oggi con questo nostro negoziato le risorse risparmiate o perse da qualcuno a livello nazionale vengono reimpiegate in agricoltura a livello di Italia. E c'è un'altra vicenda europea che ha riempito le pagine dei giornali nei giorni scorsi, è quello che riguarda il pacchetto clima. Allora, la notizia di poco fa è che il voto sul pacchetto clima si terrà nella sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo dal 15 al 18 dicembre. Inizialmente si parlava invece di una data più ravvicinata, i primi di dicembre. E adesso parliamo di due eccellenze che riguardano l'Italia, Anna. Due storie, la prima dagli Stati Uniti. Una ragazza sopravvive 118 giorni senza cuore in attesa del trapianto. L'ha operata con successo un'equipe di Miami, ma guidata da un italiano, Marco Ricci. L'altra storia ci porta invece a Baghdad, sentite. Con l'aria impaurita e gli occhi sgranati, Zana Simmons, 14 anni, guarda la telecamera. «Come ti sentivi?» le chiede la giornalista della CBS, quando dentro di te batteva il cuore artificiale. «Mi sentivo una persona finta», dice lei, «come se non esistessi davvero, come se tutto fosse finto». What did it feel like? «E che effetto faceva?» incalza la giornalista. «It felt like people Mi sentivo come se ci fosse qualcuno dentro di me che continuava a far rumore perché la macchina era rumorosa. L'odissea di Zana cominciò in luglio con un fallito trapianto di cuore. I medici decisero allora di collegarla a due pompe cardiache esterne, quelle che per 118 giorni l'hanno tenuto in vita, fino al nuovo trapianto avvenuto il 29 di ottobre. È un caso unico in pediatria e il merito va all'equipe dell'ospedale pediatrico Holtz della Università di Miami. Direttore del reparto di chirurgia cardiaca pediatrica è il dottor Marco Ricci. Parla un inglese perfetto, ma è italianissimo, laureato alla Sapienza di Roma, una carriera costruita tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Da tempo è all'ospedale Holtz, un centro più volte premiato per le sue eccellenze. Cervello in fuga o no, è stato l'uomo giusto nel posto giusto. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. Siamo grati all'Italia per il suo costante impegno a sostenere gli sforzi per recuperare il patrimonio archeologico del nostro paese. Così ci ha detto al telefono Amir Aydan, la direttrice dell'Iraqi National Museum, che ha ricevuto stamani la visita del nostro ministro degli esteri, Franco Frattini, arrivato a sorpresa stamani a Baghdad. Siamo orgogliosi di aver guidato il salvataggio di questo straordinario museo, aveva detto il titolare della Farnesina. Orgoglio che bisogna attribuire al Centro di Ricerca Archeologiche e Scavi di Torino. L'istituto è impegnato da 5 anni a ripristinare, restaurare e conservare l'immensa collezione di un museo che ha subito dopo la caduta di Saddam Hussein un inaudito saccheggio. Un altro motivo d'orgoglio per gli italiani lo darà il Centro Nazionale di Ricerche. L'istituto a febbraio, con il completamento del progetto Museo Virtuale di Baghdad, permetterà a tutti di vedere in rete le meraviglie di Assiri e Sumeri custodite nello stesso museo. Adil Fatahali, GR24, Sole 24 Ore. Avete presente il piattino di cortesia raccogli spiccioli che si trova normalmente all'ingresso di tutte le toilette nelle aree di servizio delle autostrade, delle caselle, delle autogrille nelle autostrade, scusate. Ecco, bene, da gennaio li potete dimenticare perché questo è l'annuncio che ha fatto l'amministratore delegato di Atlantia che controlla le autostrade, Giovanni Castellucci, che tra l'altro oggi ha anche annunciato i nuovi aumenti dei pedaggi autostradali, saranno del 2,5% l'anno prossimo. Aumenti record anche per il trasporto su nave. La società un aumento veramente record. Il trasporto marittimo sulla tratta Messina-Reggio Calabria e viceversa aumenterà del 60% in un sol colpo. Un aumento sostanzioso che scatterà dai prossimi giorni e annunciato oggi dal gruppo delle Ferrovie dello Stato. E ora parliamo di libri con quello di Lewis Croft sul noto pittore Egon Schiele, il pornografo di Vienna, pubblicato in Italia da Tropea. L'ha intervistato l'autore Lewis Croft, l'ha intervistato Alessandra Tedesco. Ho saputo qualcosa della vita di Schiele per la prima volta quando vivevo nella Repubblica Ceca. In una galleria lessi un breve riassunto della sua vita. Mi accorsi che era stata molto più drammatica dei suoi dipinti. Ma non volevo scrivere una biografia. Volevo catturare l'atmosfera e l'ambiente dei dipinti come quelli della persona. Cosa c'è dunque di vero in questo romanzo e che cosa di inventato? Ho dovuto prendere i fatti principali della sua vita, come la data di nascita e di morte. Ma ci sono molte cose che ignoriamo su Schiele. Non sappiamo qual era esattamente il rapporto con la sorella, se ci fu incesto o no. Non sappiamo esattamente cosa accadde quando dovette lasciare Vienna. In mancanza di fatti, la mia immaginazione è stata aiutata da centinaia e centinaia di dipinti. Cosa ti colpisce dei dipinti di Schiele? The most famous Schiele paintings are of women with not very many clothes on. I dipinti più famosi di Schiele sono quelli con donne, poco vestite. Poi ci sono i dipinti di paesaggi, meno famosi. Per me i ritratti di donne sono erotici, sexy, ma molto onesti. Non è pornografia, ma un'onesta rappresentazione del corpo umano, in un tempo nel quale la gente era molto disonesta. La Vienna del 1910. In Vienna in 1910. 13:45 minuti, GR24 Extra Large. Sta arrivando una valanga, dice il segretario della CGIL Epifani. Le banche reggono, la serve fiducia, la ricetta di Berlusconi che annuncia aiuti alle famiglie disagiate già mercoledì prossimo. Accordo a Bruxelles sulla politica agricola. Arriva l'aumento delle quote latte italiane, un'avvertenza che si trascinava da anni, un aumento pari al 6%. 633 gli incidenti stradali ogni giorno in Italia e sempre più coinvolti sono i giovani. 10 anni nello spazio, da tanto lavora la stazione orbitante internazionale. È diminuito nel 2007 sia il numero degli incidenti stradali sia quello dei feriti, ma ogni giorno continuano a verificarsi in media 633 incidenti stradali. I dati sono stati presentati questa mattina a Verona, ce li racconta Davide Piriocos. Il problema della sicurezza stradale resta drammatico. I dati diffusi oggi dall'ACI dicono appunto che nel 2007 ci sono stati ogni giorno 633 incidenti nei quali hanno perso la vita mediamente 14 persone e quasi 900 sono rimaste ferite. Oltre al dramma umano, questo fenomeno ha ricadute economiche pesanti. Si calcola che le spese sociali, sanitarie e legali siano costate lo scorso anno 30 miliardi di euro, cioè il 2% del PIL, e tra l'altro restano colpiti soprattutto i giovani con meno di 29 anni che sono coinvolti negli incidenti il triplo rispetto agli over 65. Nel complesso però questa volta c'è anche una buona notizia, e cioè che rispetto al 2006 la mortalità è diminuita del 9,5%. Il numero dei decessi resta alto, le vittime della strada sono state 5.131, ma comunque un calo di quasi 10 punti è un buon segnale, anche perché il nostro paese è in controtendenza rispetto a una media europea che ha invece visto aumentare del 10% le vittime della strada. Per commentare questi dati abbiamo parlato con Enrico Gelpi, che è il presidente dell'ACI, può partire l'intervista. Beh, un risultato positivo sicuramente, però non dobbiamo ovviamente fermarci qui, perché comunque il fenomeno dell'incidentalità stradale è ancora un fenomeno grave. Muoiono ancora troppe persone sulle nostre strade. Ci vuole un'attenzione ai comportamenti di guida, quindi maggiore formazione dei conducenti, ci vogliono infrastrutture meglio mantenute, una segnaletica più efficiente. Ci vogliono anche veicoli più sicuri, per quello che noi proponiamo una forte campagna di incentivazione alla sostituzione del parco circolante, che purtroppo in Italia è ancora uno dei più vecchi d'Europa. L'ACI che misure sta mettendo in campo? Stiamo facendo una campagna di sensibilizzazione anche con i giovani, abbiamo appena chiuso un sondaggio e c'è una grande attenzione al cosiddetto guidatore designato, cioè i giovani vanno a divertirsi, però chi poi deve guidare la macchina non beve. La patente a punti fa ancora sentire i suoi effetti o un po' meno? Un po' meno. Noi chiediamo per esempio una revisione dei corsi per il recupero dei punti persi, una sorta di rieducazione stradale. Oggi basta partecipare e pagare l'iscrizione a un corso, non è sufficiente, bisogna che questi corsi siano più seri e si concludano con un esame sia teorico che pratico. Grazie a Davide Piriocos. E ora andiamo invece nello spazio, dove si festeggia oggi un traguardo, i 10 anni della stazione internazionale. Compie 10 anni la più grande e costosa struttura spaziale mai realizzata dall'uomo. Il primo modulo della SSI, il russo Zarya, è stato infatti lanciato dalla base di Baikonur nel Kazakistan il 20 novembre 1998. Sono molti i paesi che si preparano a festeggiare la Casa Laboratorio nello Spazio, nata dalla collaborazione tra le agenzie spaziali di Stati Uniti, Europa, Canada, Russia e Giappone. Un'impresa il cui costo dagli anni 80 al 2016, quando sarà completata, è valutato complessivamente in oltre 100 miliardi di euro. Importante ruolo dell'Italia attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea, considerando che sono state realizzate nel nostro paese circa il 40% delle strutture della stazione. Si calcola che siano complessivamente oltre 100.000 le persone che vi hanno lavorato e che continuano ad essere impegnate nel progetto per conto delle diverse agenzie. Un grande progetto dell'uomo, un progetto tutto da vedere su www.radio24.it. E veniamo al tormentone di questi giorni. Parliamo naturalmente del senatore Villari e delle sue dimissioni dalla commissione di vigilanza sulla RAI. Le vignette, la satira sui giornali. Cominciamo con il giornale Crancic. C'è un Veltroni che spinge giù da una torre. Antonio Di Pietro, il giochino della torre, perché la torre, sapete, ha lasciato il posto a Zavoli per essere eletto verosimilmente presidente della commissione di vigilanza. L'altra è Di Vauro sul Manifesto e siamo in un'aula scolastica, c'è un insegnante con la bacchetta e dice: la torre, mi consegni immediatamente quel bigliettino, e il titolo è La 7 in condotta. Mancano 25 minuti, alle 14.15 si riunirà la commissione di vigilanza RAI. Che succederà? Si dimetterà come annunciato il senatore Villari? Qual è il clima? Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, un clima per il momento tranquillo, da programma dei lavori parlamentari, lo avete ricordato da studio, alle 14.15 si costituirà la commissione, eletti due vice, prenderà poi la parola l'attuale presidente Riccardo Villari, che dovrebbe quindi presentare le sue dimissioni. Il condizionale è d'obbligo, infatti lo stesso Villari ha fatto capire che farà un passo indietro solo di fronte ad una richiesta compatta da parte dei membri della vigilanza RAI, che meno di una settimana fa lo hanno eletto, cosa non scontata però. Sono diversi infatti i parlamentari di maggioranza che reputano legittima la nomina di Villari e quindi la sua presidenza. In commissione sarà presente il senatore Sergio Zavoli, sul cui nome si è trovato un accordo tra gli schieramenti. Zavoli sostituisce la torre, al centro di polemiche per i famosi pizzini. Assenti due esponenti dell'Italia dei Valori, Leoluca Orlando e Pardi. Non parteciperemo più ai lavori, ha spiegato Di Pietro, in quanto il nostro diritto costituzionale è stato calpestato. Insomma, la situazione resta complessa, vedremo tra breve cosa accadrà. E da Roma è tutto. Grazie naturalmente a Vincenzo Miglietta. Parliamo di un personaggio importante che riguarda l'Italia, il grande chef Gualtiero Marchesi. È scomparso dalla guida rossa della Michelin. Alcuni mesi fa aveva criticato l'uso dei punteggi e aveva chiesto di non essere più giudicato. Sentiamo. Restituisco le stelle alla Michelin, lo aveva detto a giugno, e la Michelin ha deciso di toglierlo dalla sua guida. La rossa edizione 2009 ha depennato così il ristorante di Gualtiero Marchesi, che ha avuto 3 stelle dal 1986 al 1997 e da una decina d'anni di stelle ne aveva soltanto 2. Le ragioni di questa decisione ce le ha spiegate Fausto Arrighi, curatore della guida italiana Michelin. Gualtiero Marchesi ha chiesto di non essere più valutato dalla guida, in riferimento in particolare alla nostra. Abbiamo esaudito il suo desiderio. Ecco, senza alcuna polemica, ecco, è stata una sua esplicita richiesta e noi abbiamo optato per questa soluzione. Ecco. La guida rossa Michelin edizione 2009 è stata presentata oggi alla stampa e appena si è diffusa la notizia della sua esclusione, Gualtiero Marchesi ci ha risposto così. No comment, cosa vuole che le dica? Chiesto di non avere dei punteggi e hanno voluto, al di là dei punteggi, togliermi addirittura. Vabbè, è per loro, avranno delle ragioni più profonde che io non posso sapere. È la mia risposta. Credo che il cuoco si sia talmente allontanato dal cliente che mi sembra che tutti questi giudizi vadano un po' risistemati. Essere moderni non vuol dire buttare via tutto e rifare da capo qualcosa di nuovo, vuol dire continuare a modificare, aggiornare, rendere più attuali le cose che sono sempre esistite. La modernità è questa. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Sta arrivando una valanga, dice il segretario della CGIL Epifani, sulla situazione economica. Le banche reggono, la serve fiducia, la replica di Berlusconi che annuncia aiuti alle famiglie disagiate. La crisi aumenta il rischio di usura, 70 miliardi per la prevenzione in 6 mesi, sequestrati alla criminalità organizzata, quasi 3 miliardi. Più latte prodotto dall'Italia. Bruxelles riscrive le regole per le quote, aumentano quelle italiane. Nel nostro paese crescono i bambini stranieri, il Premier rilancia le classi ponte. Nella giornata dell'infanzia, sotto i riflettori, quella rubata. 633 gli incidenti stradali ogni giorno in Italia, sono in diminuzione ma è ancora emergenza e sempre più coinvolti sono i giovani. Nel mondo le eccellenze italiane, un medico negli Stati Uniti restituisce il cuore ad una ragazza che ha vissuto senza per 118 giorni. In Iraq torna a vivere il museo di Baghdad grazie ai carabinieri. GR Extra Large, Alessio Maurizi, Anna Migliorati in studio, è tutto per questa edizione. Al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Extra Large, @radio24.it, vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, l'appuntamento è per domani dalle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.